semplicemente, semplicemente. Semplicemente insieme, buon pomeriggio, ben trovati, siete rigorosamente in diretta su CRMP Radio, naturalmente all'interno di Semplicemente Insieme in compagnia di Jerry, mia compagnia, fino alle 17. Oggi mercoledì 18 settembre, 15:14, sono in perfetto orario, credo, sì, come il solito orario, il mio orario praticamente. E allora vi ricordo subito i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste. Anche perché no, per farmi un semplice saluto. E allora lo 0921 92 32 92 ancora per i vostri sms, il 335 56 37 251. Vi ricordo ancora che potete seguirmi in diretta streaming sul nostro sito, che è il www.crmfradio.it, o ancora sulla nostra pagina Facebook. E se non siete ancora tra i nostri contatti, beh, semplicissimo, entrate su Facebook, scrivete CRMP Radio e cliccate mi piace, così anche voi entrerete a far parte della nostra grande famiglia di CRM, da dove potete postare, scrivere messaggi, insomma, curiosare un po' nella nostra pagina. E allora io dico di cominciare, sì, che dite? Cominciamo? Sì, dai, partiamo con uno dei tormentoni, dei tanti tormentoni di quest'estate. Arrivano i Daft Punk con Get Lucky. Buon pomeriggio! Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Proprio, devo dire, alla grande con questo tormentone Get Lucky. siete sempre con me, lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto solo in questo momento, siete in compagnia di Jerry sino alle 17 all'interno di Semplicemente Insieme, rigorosamente in diretta. La prossima canzone che arriva tra pochissimo, ma io volevo dedicarla a due care persone alla quale voglio molto bene, ai quali voglio molto bene, sono Erminia e Leonardo che in questo momento mi stanno ascoltando. Io ero un passo avanti e due indietro, una foglia sospesa lì così, tipo un pesce dietro un vetro, io che osservavo le nuvole in cielo, aspettavo un segnale o chissà. Lasceranno la bella e amata Sicilia perché le vacanze sono finite, quindi si ritorna a casetta, si ritorna a lavorare, quindi buon viaggio, io vi aspetto sempre, chissà magari verrò a trovarvi, ma magari vi faccio una bella bella sorpresa, che ne dite? Sì? Ok, allora buon viaggio e un bacione grande grande. E a proposito, parliamo di Gianni Morandi, che abbiamo appunto appena ascoltato. Beh, fervono i preparativi per uno degli eventi musicali più attesi dell'anno. Infatti su Canale 5 andrà in onda in diretta il 7 e l'8 ottobre, in prima serata, Gianni Morandi live in Arena. Nella cornice magica dell'Arena di Verona, infatti, il cantante, tra sorprese e nuovi brani, accoglierà i fan per due serate imperdibili. Inoltre è online il sito ufficiale dell'evento, in cui potete trovare tutte le curiosità e naturalmente anche tutti gli aggiornamenti. Inoltre saranno con lui 100 giovani musicisti d'orchestra,

dovrà guarire poi, era vincioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non niente, ti sembra niente il sole. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Il mare, tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, oh, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la notte era finita e ti sentivo ancora. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. In diretta su CRM di Radio, semplicemente insieme con Geraldina Turdo. Back in my life. Stay with me. ancora sino alle 17, sempre con tanta buona musica. Arriva lui, il grande Liga, con il suo nuovo Il sale della terra. Siamo la sorpresa dietro i vetri scuri, siamo la risata dentro il tunnel degli orrori, siamo la promessa che non costa niente, siamo la chiarezza che voleva molta gente. Di Valentino, siamo la ragazza nel bel mezzo dell'inchino, siamo i trucchi nuovi per i maghi vecchi, siamo le ragazze nella sala degli specchi, siamo il culo sulla sedia, il dramma, la commedia, il facile rimedio, siamo l'arroganza che non ha paura. Siamo quelli a cui non devi chiedere fattura. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo l'opinione sotto libro paga, siamo le riunioni qui nel retro di bottega, siamo le figure dietro le figure, siamo la vergogna che fingiamo di provare, siamo il culo sulla sedia, la farsa, la tragedia, il forte sotto assedio, siamo la vittoria della tradizione. Siamo furbi che più furbi di così si muore. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Freddezza che non ha paura, siamo quel tappeto steso sulla spazzatura, siamo la Mont Blanc con cui ti faccio fuori, siamo la risata dentro il tunnel degli orrori, siamo il sale della terra, siamo sale della terra, siamo il sale della terra, siamo il sale della terra, e su questa canzone saluto Gaetano, un bacione grande a Gaetano. E a proposito del grande Liga, beh, c'è stato un po' di paura tra i fan appunto del grande rocker lunedì all'Arena di Verona per il primo dei 6 concerti sold out con band ed orchestra. Il rocker, mentre cantava Questa è la mia vita, è inciampato sbattendo la spalla sul lato del palco. Dopo gli accertamenti clinici il responso è stato microfrattura alla spalla destra. Il cantante ha voluto garantire la presenza agli altri 5 concerti che si terranno il 17, 19, 20, 22 e 23 settembre, tornando sul palco più carico di prima. Quindi tanti in bocca al lupo al nostro Ligabue, che presto ritornerà insomma a farsi sentire, insomma capitano cose che capitano e capitano anche a lui. E noi adesso continuiamo e andiamo avanti con un'altra bella canzone. E su questa canzone saluto Patrizia, ciao Patrizia, tutta per te questa qui. I'm sitting here in the boring room It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da da da da da da da da da da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, ma quanto è bella questa canzone, Patrizia, era tutta tutta per te. La canzone dice lemon tree, quindi alberi di limoni. Parliamo proprio del limone. Patrizia, stai attenta, perché voi ti sei mai chiesta quanti benefici si nascondono dietro per esempio ad un limone? Beh, almeno 10. 10 effetti benefici e 10 buoni motivi quindi per inserire questo straordinario frutto nella nostra alimentazione. Chi infatti non ha mai bevuto una bella spremuta di limone per schiacciare per esempio il raffreddore? C'è chi addirittura lo consiglia contro il mal di testa. Diciamo che il limone fin dall'antichità è sempre stato considerato un vero e proprio farmaco, un alleato assieme ad altri alimenti per il benessere e la salute del corpo. Pensate un po', intanto il limone riequilibra il pH corporeo, ostacola l'insorgere dell'osteoporosi, possiede proprietà antibatteriche, inoltre migliora la digestione e favorisce il transito intestinale, combatte raffreddori e influenze grazie al contenuto di vitamina C e flavonoidi, inoltre contrasta l'acido urico e depura il fegato, rafforza i vasi sanguigni e contribuisce a dissolvere i calcoli biliari e renali grazie all'acido citrico. Inoltre contrasta i radicali liberi e dunque l'invecchiamento cellulare dell'organismo. E secondo recenti studi contrasterebbe anche l'insorgere di tumori. Quindi 10 motivi per utilizzare un frutto tanto prezioso e salutare nella nostra alimentazione. Quindi il limone fa bene, poi la nostra terra è ricca di agrumi, quindi come appunto il limone, l'arancia, quindi mi raccomando, inseritelo nella vostra alimentazione perché male non vi farà, anzi ne trarrete sicuramente tanti tanti benefici. Ok Patrizia, ci sei? Quindi da oggi in poi comincia ad usare il limone, che so che te non tanto ti garba, però comincia ad usarlo, ok? E noi andiamo avanti con la prossima canzone, e su questa canzone Demoda, dimmelo, io saluto Chiara, la nostra cara affezionatissima ascoltatrice che ci segue sempre, sempre, sempre, sempre. Questa è tutta per te. Non mi capisco, perdo il controllo, faccio paura addirittura anche a me stesso.

sbagliato, meglio non ci vediamo. Da Adamo ed Eva viene da chiedermi noi chi siamo. I politici vanno con Eva, ma adesso Eva c'ha il pomo d'Adamo. Che confusione, i due non ne fate uno neanche con la fusione. Man, Super Saiyan di sta scena qua, intorno a me dei Mister Satan. Crisi fresca, vedi il fondo, non si disinnesca l'ultimo secondo. Game over, come o cosa, ci siamo quasi, la bomba è esplosa. Che confusione intorno a me, è quasi come dopo una bomba. Che confusione intorno a me, è quasi come dopo una bomba. Che confusione intorno a me, è quasi come dopo una bomba. Che confusione intorno a me, è quasi come dopo una bomba. E sono ancora qui con voi su questa canzone, saluto Maria che ce l'ha richiesta, ciao Maria. E noi continuiamo e andiamo avanti, arriva lei, quella matta, Lady Gaga con Applause. I stand in waiting for col tuo odore, bello come chi non se lo immagina. Aspetta qui e lasciami fare. Spengo ad una anche le stelle, al buio sottovoce si dicono le cose più profonde di io, mi sento bella come non mai, come questo sole che ci illumina. Amami come la terra, la pioggia d'estate. Amami come se fossi la luce di un faro nel mare. C'è solo il vento e porta via l'amore. Cancello quei tuoi occhi, quelle fragilità. Rivivo nei tuoi sensi le voglie e la paura. L'istinto di chi poi non solo immagina la bellezza di chi ride e volta pagina. E conservo ad una anche le stelle. Le tengo fra le mani e conto sulla pelle. E bocca contro bocca, e sono l'unica sotto questo cielo che ci illumina. Amami come la terra, la pioggia d'estate. Amami come se fossi la luce di un faro nel mare. C'è solo il vento e porta via l'amore. E tutto quello che resta sono sogni incollati fino a dentro le ossa. E abbiamo appeso le ali, viaggiamo dentro ai ricordi e poi restiamo da soli. Ma amami e dammi le mani, le mani, le mani, le mani. Giorgia che ce l'ha richiesta, ciao Giorgia. E parliamo di Emma, sì sì, proprio di lei, di Emma e di Marco Bocci, di questo bellissimo e bravissimo attore di Squadra Antimafia, insomma, della famosissima serie, popolarissima. Praticamente Marco e Emma, a quanto pare, insomma, girano delle voci sulla loro presunta crisi. Beh, in realtà non è assolutissimamente vero, e lo ha confermato lo stesso attore ad alcune sue fan che erano accorse sul set della fiction, appunto Squadra Antimafia, per acclamarlo e che hanno chiesto direttamente a lui della presunta rottura con la famosa cantante. In effetti le voci sulla presunta rottura tra i due si era diffusa da quando Marco Bocci si era presentato al Lido di Venezia per la mostra del cinema 2013 senza la compagna, circostanza che aveva fatto dubitare tra i due che le cose non filassero lisce. Ma c'è anche da considerare che entrambi sono molto riservati e non amano mostrare in pubblico l'affetto che provano l'uno per l'altra. Comunque anche Emma ha voluto dire la sua, anche se in maniera non esplicita, e lo ha fatto scrivendo sul suo profilo Twitter una frase in cui alludeva in maniera simpatica al fatto che si sarebbe vista di lì a poco con il suo bel Marco, e quindi tutti i numerosi fan della coppia si sono immediatamente tranquillizzati. Del resto l'attore e la cantante sono al centro dell'attenzione dal momento in cui è stata resa pubblica la loro storia d'amore e la circostanza che Marco Bocci sia andato quest'estate a conoscere personalmente i genitori di Emma, mentre erano appunto in vacanza in Puglia. Sembra quindi non essere bastata per sedare i dubbi di chi continua ancora a non credere che i due VIP si amino sul serio ed intendano costruire una storia importante dal punto di vista sentimentale. Bella acchiappo, Emma e Marco Bocci. il commissario Calcaterra di Squadra Antimafia, devo dire una soppo seguitissima in tanti che amano soprattutto lui e il suo personaggio. Bene, noi continuiamo, fortunata Emma, beata lei, andiamo avanti con la musica. La prossima canzone, su questa canzone saluto Serena. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more, so I can go until they close up, and I can drink until I'm told. Got a little bit trashed last night. I got a little bit wasted. Yeah, yeah. I got a little bit mashed last night. I got a little shit-faced. Yeah, yeah. Well. Give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till I'm in? I call my homie Tyo, we can all sip again. Get it in, and again, leave evidence. Wasted, so what? Irrelevant. Dip check to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean to back us out, too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never throw up, so let the drinks go up, oh up. I got a hangover, whoa. I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa. I got an empty cup, pour me some more, so I can go until they close up, and I can drink until I'm told up, and I don't ever. Sempre oltre. oltre il tempo di questo momento. Arrivo in fondo ai tuoi occhi quando mi abbracci e sorridi. Se mi stringi forte fino a ricambiarmi l'anima. Questa notte senza luna adesso vola tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Tu che sei nei miei giorni, certezza, emozione, nell'incanto di tutti i silenzi che gridano vita, sei il canto che libera gioia, sei il rifugio, la passione, con speranza e devozione. Io ti vado a celebrare come un prete sull'altare. Io ti voglio celebrare come un prete sull'altare. Questa notte ancora vola tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Sta arrivando il mattino, stammi ancora vicino, sta piovendo e non ti vuoi svegliare, resta ancora, resta per favore e guarda come vola tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Adesso vola oltre tutte le stelle, alla fine del mondo vedrai i nostri sogni. E su questa canzone saluto Ludovico che ce l'ha richiesta sempre qui, vi ricordo al 335-56-37251. E a proposito di dormire, di riposino, di pisolino, beh, diciamo che quella della siesta è una vera e propria arte, ne sono convinti infatti gli studiosi dell'Università della Pennsylvania negli Stati Uniti, che dicono che il pisolino è qualcosa di molto più complicato di quanto si pensi. Ed inoltre ci sono tanti tipi di riposo pomeridiano e bisogna sceglierlo sulla base dell'obiettivo che naturalmente si vuole raggiungere. Ad esempio, per fare una veloce ricarica e tornare subito lucidi e produttivi bastano tra i 10 ai 20 minuti di sonno. Per migliorare invece il processo di memorizzazione serve un'ora completa di riposo. Però unica controindicazione di questa pausa più lunga è l'intontimento al risveglio. Infine, per fare il pieno di creatività e attenzione bisogna dormire per un'ora e mezza. Comunque l'ora ideale per abbandonarsi sulla poltrona o sul divano, secondo gli esperti, sarebbe tra le 13 e le 16. Se si va invece oltre si rischia di compromettere la qualità del sonno notturno. Quindi avete capito, tra le 13 e le 16 una bella penichella, però non dormite tanto, sennò poi la notte non riuscirete sicuramente a prendere sonno. Mi raccomando, questi sono i consigli degli esperti, quindi insomma bisogna un po' ne teniamo conto, diciamo così, ecco. Andiamo avanti con la bella musica e sulla prossima canzone vado a salutare Marcella. Ciao Marcella. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start.

rua, deixa a vida desfilar. Oi, oi, lê, aiê, deixa de nada vou ler. Oi, oi, lê, aiê, deixa de nada vou ler. Cai na festa do ilê, o oh, e o oh. Entra que vi nessa leia, e o oh, e o oh. Deixa de nada bule e caia, e paxé. Fabio Concato, mi innamoro davvero, alla sua Sofia con tanto tanto amore. Arriva, eccola. Mi sento strano davvero, da un po' di tempo è così, succede sempre ogni volta che sei qui. Tutto mi sembra migliore, capisco bene cos'è, capisco che mi innamorerò di te. Sei sempre il primo pensiero e mi addormento con te. Sembra un malanno ma è buono. Mi fa sentire leggero, sorridi e stai come me. Lo sai, mi sto innamorando anch'io di te. Vai, che mi innamoro davvero. È troppi giorni da quanti, quasi una vita a cercarti, adesso io qui davanti e vedrai, vedrai che di tempo ne avrò, ne avrai, amore quanto vorrai, perché non basta mai. E ci teniamo per mano, siamo in silenzio io e te. Certo che buffo, son teso più di te. Ti sento tra le mie dita ed è un piacere così. In questo istante la vita tutta qui. Vai, che mi innamoro davvero. Guardami, sono sincero, provo le stesse due cose adesso. Per me lo stesso è verrà. Vedrai che di tempo ne avrò, ne avrà. Amore quanto vorrai, e che non basti mai. tutto strano davvero. È un po' di tempo e così succede sempre ogni volta che sei qui. Saluto Francesco e Sofia, bravi ragazzi. E noi continuiamo e andiamo avanti, sono le 16:46, ancora un po' di tempo da trascorrere insieme a me. In the beginning, I never thought it would be you. When we were chilling, smiling in the photo booth, but we got closer. Off my spoon, you're coming over, and we would talk all afternoon. Tonight we'll just get drunk, disturb the peace, run your hands all over me, and then you bite your lip, whisper and say, we're going all the way. Ay. This could be perfect, yeah. But we won't know unless we try. Yeah. I know you're nervous, so just sit back and let me drive. Tonight we'll just get drunk, disturb the peace, run your hands all over me, and then you bite your lip, whisper and say, we're going all the way. I nuovi brani dell'album Tattoos, che uscirà il 24 settembre. Il nuovo singolo è Talk Dirty, il primo di Jason a contenere una featuring con il rapper 2 Chainz. Dopo un 2012 abbastanza tumultuoso, l'artista multiplatino Jason Derulo ritorna sulle scene alla grande, sia dal punto di vista fisico che emotivo. Nel gennaio 2012 infatti Jason si fece male al collo in maniera molto seria durante le prove del tour mondiale legato all'album Future History. In un'esclusiva intervista a Men's Health rivela che l'incidente che ha rischiato di paralizzarlo e che emotivamente lo ha privato di ogni energia in realtà gli ha fatto apprezzare ancora di più la vita e la carriera. È bastata quell'unica esperienza per farmi crescere all'improvviso, racconta appunto. Da quando è apparso sulle scene nel 2009, il cantante e compositore americano ha venduto oltre, pensate un po', 14 milioni di brani, sommando le vendite delle sue hit più popolari come Whatcha Say, In My Head, Rhythm Solo, Don't Wanna Go Home e It Girl. Brani suonati dalle radio oltre 10 miliardi di volte, i cui video hanno fatto accumulare oltre 700 milioni di click sul suo canale YouTube. Quindi un ritorno alla grande di Jason Derulo, che devo dire non delude mai. E noi continuiamo, andiamo avanti sempre con la buona musica. Arrivano loro, Sugar Free, pura e semplice, su questa canzone Saluto Mariella. Dimmi di cosa sa questa tua libertà, ora che oscillo come un pendolo, ad ogni tocco ti allontani sempre un po'. Che non è così, dammi un po' di crudeltà, tanto quanto posso per distruggerti, sei tu che hai preso a pugni la mia lealtà, perché senza te. Succederà quando io non ti rivedrò, le lacrime come mercurio scioglieranno in me e l'entusiasmo di volare un po' più in là, perché senza te. Forse un giorno lo so, ripensando al dolore che ho, tormentandomi sempre di più, riderò ma ora piango per te. Riderò forse un giorno lo so, ripensando al dolore che ho, tormentandomi sempre di più, riderò ma ora piango per te. Che non riesce a stare accesa senza te. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. This is a song for the broken hearted. Yeah. canzone in programma per oggi, per questo mercoledì 18 settembre. Noi naturalmente ci ritroviamo venerdì sempre a partire dalle 15 sino alle 17, sempre con me, insieme a me, con tanta buona musica. Non mi resta che augurarvi buon proseguimento con i programmi di CRM. Vi auguro una buona serata e mi raccomando, come dico sempre io, fate i bravi. Ciao ciao, a venerdì, baci. Semplicemente.